Dialog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. L'ultima crociata arriva questa volta dall'Islam più integralista. Roma, intesa come simbolo della cristianità, è ufficialmente nel mirino della furia devastatrice dell'ISIS, l'autoproclamato Stato Islamico che intende ridisegnare i confini del Medio Oriente. E come in una nemesi della storia, coloro che subirono un tempo le crociate della Chiesa Cattolica contro l'invasore, oggi minacciano di sangue e morte il cuore del cristianesimo mondiale. Vi promettiamo che sarà l'ultima vostra crociata. Non ci invaderete questa volta, ma vi invaderemo noi. E con la volontà di Dio distruggeremo la croce, conquisteremo la vostra Roma e prenderemo le vostre donne, dice il portavoce dello Stato Islamico Abu Muhammad al-Adnani nel delirante messaggio audio di 42 minuti rivolto verso l'Occidente. Lo stesso messaggio nel quale i miliziani... Sarà anche stato delirante questo messaggio, come dice appunto lo speaker, ma oggi penso che molti forse ci staranno pensando. I giornali più illuminati già hanno centrato in pieno il messaggio, visto fotomontaggi di Via dei Fori Imperiali con truppe jihadiste che marciano con le bandiere nere, con i Kalashnikov, quindi già si sta creando lo spettro della nuova invasione barbarica. Ma questo sarebbe poco, non è vero che è la prima volta che ci invadono, già siamo stati più volte spesso invasi, ne abbiamo avuto cultura, ne abbiamo avuto distruzione, ci siamo ripresi i nostri spazi, ma voglio soffermare sulla parte più arcaica, più lontana, più barbarica di questo proclama. Prenderemo le vostre donne. Beh, io da occidentale civilizzato non sapevo di avere delle mie donne. Nessuna donna che io frequento è mia, mi appartiene, non è un mio possesso. Sono donne, o una donna, più donne, un'infinità di donne, dipende dai soggetti, con le quali ci accompagniamo, dividiamo tratti della vita, dividiamo esperienze, dividiamo lavoro, dividiamo affetti, dividiamo piaceri carnali, ma non sono le nostre donne. Questo fa sì che ci fa ritornare immediatamente indietro quando le donne erano nostre, erano un possesso, quando l'uomo aveva potestà totale sulle donne, quando aveva fino a qualche anno fa persino diritto di ucciderle per causa d'onore. Beh, questo mi fa riflettere e qua ancora una volta io voglio tornare a parlare di quale sia l'effetto di questa enorme, miratissima, intelligente e ben strutturata campagna pubblicitaria nei confronti dell'Occidente. E lo faccio come sempre con Bruno Ballardini. Bruno Ballardini, buongiorno. Buongiorno a voi. Esperto di marketing, comunicazione strategica, autore di vari libri, fra cui l'ultimo Perché il Papa è un genio del marketing, edizione PM. Ballardini velocemente e radicalmente negli ultimi mesi ha dovuto spostare la sua attenzione al fenomeno di recupero dell'immagine da parte della Chiesa apostolica romana e cattolica verso quello che è, secondo lui, ma condivido in pieno, anzi me ne faccio portatore, una grande campagna verso l'Occidente. Su quest'ultimo messaggio, Bruno, prenderemo le vostre donne, le faremo schiave, come si innesta... dando per scontato, per ipotesi se vuoi surreale, che sia una campagna a tutti gli effetti, una campagna pubblicitaria. Come si innesta questo messaggio? Prenderemo le vostre donne. Ma fa leva su valori ancestrali, nel senso che io continuo a pensare a Hollywood, non so perché, è una cosa più forte di me. Cioè, i sceneggiatori adesso ultimamente, quando fanno anche cinema horror, si rifanno a studi di antropologia culturale e quindi qui si sono state recuperate molte tradizioni che ci appartengono e funzionano ancora, perché noi abbiamo qualcosa che risuona dentro quando sentiamo certe frasi. Ora ti dico la frase più geniale a commento di quanto abbiamo detto, che mi arriva adesso via SMS: prenderanno le nostre donne, è ovvio che non le conoscono. Beh, io posso citare il mio amico e collega Gianni Lombardi di Milano, che ha giustamente detto si potrebbe aprire un fronte di appoggio all'ISIS da parte dei separati e divorziati. 800240024, cosa rispondereste per assurdo, se voi aveste facoltà di farlo, ma visto che non ce l'avete, ai guerriglieri dell'ISIS che dicono prenderemo le vostre donne? Quanti sareste disposti a dire beh, accomodatevi, eccole, ve le mandiamo? Oppure quanti si sentono lesi, in quanto di più intimo, di più sacro hanno il loro amore personale, coniugale, sessuale e via dicendo? Quanto sareste disposti a dare perché prendano le vostre donne? 800240024. Uccidete i miscredenti in qualunque modo e attaccate i civili. È l'ultimo appello terrificante lanciato dagli islamici dell'ISIS in un lungo messaggio audio. Allarme in tutto l'Occidente, ieri l'appello del Papa a non uccidere in nome di Dio. Renderemo schiave le vostre donne. Alza i toni delle minacce, lo Stato islamico, con un messaggio audio di 42 minuti diffuso su Twitter. Il portavoce del califfato, Abu Mohammed al-Adnani, invita i militanti ad attaccare i cosiddetti miscredenti in qualsiasi modo. Retorica del fanatismo, certo, ma anche possibili messaggi in codice e minacce da non sottovalutare. Poi diciamo che questo frangente assume tutti gli aspetti di una grande campagna pubblicitaria, che sono degli elementi ricorrenti. Oggi vedo la corrispondenza di Maurizio Molinari da Gerusalemme, l'inviato della Stampa, parla della milizia delle guerriere Peshmerga. I curdi del Kurdistan hanno messo su una milizia di donne, perché le donne fanno paura ai jihadisti, perché il jihadista che combatte, si uccide, fa saltare per andare in paradiso e trombarsi decine di vergini, questa alla fine è lo scopo finale, ha un terrore fottuto di essere ucciso da una donna, perché ucciso una donna forse non si va più in paradiso. Ecco, tutti questi elementi che assumono dei caratteri, poi sono sommari, vorrei sentire in realtà un esperto in cultura islamica se poi quanto questo corrisponde a verità, diventano come elementi che sorreggono una grande campagna. Ma sì, questo è, fino adesso canche abbaia non morde, a parte qualche episodio di sgozzamento, ma insomma il discorso è che venissero, cioè le diamo volentieri, ma poi oltretutto noi abbiamo delle siciliane, delle napoletane che li rivoltano come pedalini questi qua. Cioè io credo che sostanzialmente ci sia un maschilismo tipico dell'Islam che poi viene amplificato in modo terroristico, ma la campagna qua sta declinandosi su vari valori che fanno parte del nostro inconscio collettivo, della nostra cultura. Non dichiarati e ipocritamente elaborati quando non sono elaborati. Esatto, e poi è fatto sistematicamente. Io sto osservando anche altre cose, sto osservando che questi signori non citano mai, non minacciano mai stranamente la Cina e la Russia. Ma com'è questa storia? Cioè, sembra una strategia geopolitica che comunque fa gioco in ogni caso agli Stati Uniti, perché sembra un invito. Non è che stanno minacciando il mondo intero, stanno minacciando una parte. Ma guardate che in Cina e in Russia hanno perseguitato i musulmani molto peggio di noi in tempi recenti, in tempi moderni. E poi ci sono delle zone, diciamo, di confine limitrofe in cui le tensioni sono proprio fortissime, in cui ci sono comunque popolazioni musulmane. Quindi voglio dire, Hollywood più degli spot che sono confezionati a regola d'arte, sono veramente spettacolari, fanno leva su quello che già funziona nel cinema, nelle grandi sale. Allora, continuo con l'aneddotica, visto che è fortissima. Non ho mai visto in realtà una guerra annunciata, una guerra a tutti gli effetti. Quando cominciano i bombardamenti, guerra si tratta, quando noi diamo le armi ai guerrieri Peshmerga, ecco, siamo anche noi in guerra in questo momento. Questo, la gente, in questo buonismo imperante, non ci rendiamo conto che siamo, il nostro governo ci ha fatti entrare, nostro malgrado, in guerra, perché ha regalato delle armi che erano state, come dire, sequestrate ed erano sigillate con una decisione unilaterale senza un dibattito in Parlamento. Questo è il nostro governo. Dicevo, cito l'episodio, l'aneddotica del bambolotto Ciccio Bello che viene fatto vedere in dei siti. Stai parlando di Renzi? No, sto parlando di un bambolotto che viene messo in vendita, viene perlomeno su internet, che è il luogo della massima mistificazione in cui non esiste mai la certezza, dove fa vedere che questo bambolotto serve ai bambini, aspiranti jihadisti, per fare esperienza e pratica di decapitazione. Quindi danno un coltello, un bambolotto, delle video istruzioni come tagliargli la testa. Io lo trovo fantastico. È bellissimo, ecco, lo faccio vedere. Ecco, non so se poi ci sarà anche la successiva Barbie per poter essere rapita e messa in catene. Ma magari lo facessero, Barbie è insopportabile. Salvatore da Pescara, buongiorno. Salvatore. Salvatore è lì, ma non... cioè, è scomparso. Beh, andiamo avanti e vi leggo qualche sms sulle reazioni. Ricordo che il telefono è 0024 0024 80024 0024. Mi piacerebbe sapere come avete recepito questo messaggio. Vi è passato indifferente? Se vi è passato indifferente, la campagna è stata sbagliata, o perlomeno era tesa a colpire persone che non ascoltano questa trasmissione. Più che maschilismo, secondo noi, la vocazione al martirio degli estremisti islamici. Ma poi altri, ignorarli non sarebbe meglio? No, non è mai bene ignorare le persone. Claudio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Guardi, Io non ci credo proprio, ma credo che questi sono solo fanatici, non ci possono far paura. Beh, che fossero dei moderati non abbiamo mai pensato, onestamente. No, ma neanche moderati, no, ma sono fanatici e basta. Sono fanatici e basta. E il fatto che vengono a minacciarci, eccetera, non possono pensare che prima o poi anche noi cittadini normali cominciamo a reagire, non lo so. Ma lei pensa di avere delle possibilità di contrasto di una persona per cui morire è il massimo premio? Ma guardi, io siccome sono, io non dico che sono morto, ma ho qualche problema di salute, per cui sa, se mi toccassero mia figlia, per esempio, che è una giovane ragazza, se la toccassero io mi imbotterei di esplosivo e vado a farmi esplodere in mezzo all'ora, tanto la mia vita. Beh, anche loro sono tutti imbottiti, fate il gioco delle bocce, chi scoppia prima, scusate, qual è il problema? Capito, certo, ma è solo per dire, no, che loro stanno facendo un gioco per spaventarci, secondo me. Ecco, lei vede una campagna deterrente, come dice Ballardini, che va a colpire dei punti sensibili. Mirko, buongiorno. Buongiorno. Sì. Niente, no, io volevo solo dire... Lei sente minacciato nelle donne della sua famiglia? Io mi sento molto minacciato da questa situazione dell'ISIS. Infatti il mio intervento era che abbiamo gli arsenali pieni di bombe atomiche. Dove sono? Non ne so nulla, se lo sa lei. Dove sono le bombe atomiche? Stati Uniti, la Francia, Israele, la Russia, tutti hanno una bomba atomica. E quindi le devono lanciare tutti? No, dove c'è l'ISIS si va lì e ci si sganciano un paio di bombe atomiche e si fanno fuori tutti questi signori. Si rade al suolo l'Iraq, la Siria, il Kurdistan praticamente. No, perché si deve radere al suolo? Stanno ovunque, mi sembra che Hiroshima non ha raso al suolo tutto il Giappone. È stato un bel esempio Hiroshima, secondo lei è stato un bel esempio? Scusi, abbia pazienza, io sono sposato con una giapponese, questo argomento mi tocca particolarmente perché è un genocidio quello che è successo a Hiroshima. Del tutto gratuito. Allora facciamoci uccidere noi. No, non è accettabile questa argomentazione, mi perdoni. Ho capito, però qualcosa bisognerà pur fare contro queste persone. Vabbè, li lasciamo arrivare a Roma e fare quello che gli pare. Ma lei cosa teme che faccia una volta venuti a Roma? Cosa potrebbero farle? Beh, potrebbero costringermi a pensare quello che non voglio pensare, a fare, cioè, quello che non voglio fare. A convertirsi all'Islam? Io tengo la mia libertà e la democrazia. Beh, cioè, appena detto che dovrebbe lanciare, ha invocato la bomba di Hiroshima come un esempio di democrazia, è stato uno degli atti più scellerati della seconda guerra mondiale. Non ho invocato la bomba di Hiroshima, ho detto che lei ha detto se rade al suolo l'Iraq, non mi sembra che io ho fatto questo esempio. Ha fatto un esempio. Assolutamente, non ha raso al suolo l'intero Giappone, è una cosa mirata. Mirata, è un genocidio mirato per provare una bomba che non capire come funzionasse. Fine. Carla. Finalmente. Buongiorno. Si sta preparando a essere messa in catene? Allora, non avevo sentito questa minaccia e penso di interpretare mio marito, che è una persona molto simpatica, che direbbe sicuramente che dice non le conoscono, non le conoscono, si farebbe una bella risata. Cioè non vedrebbe l'ora che la portano via? Sì, quando mi è capitato di andare. Avevo colto che in realtà l'atteggiamento l'italiano medio fosse proprio questo, forse abbiamo dato gli elementi in più per la prossima campagna all'ISIS. Melog, cronache meridiane. Spezzeremo le croci e faremo schiave le vostre donne, con il permesso di Allah. Io credo che questo messaggio ci debba far riflettere, ci debba far anche un po' preoccupare, secondo la mia opinione, senza però preoccuparci troppo, però un po' di paura, secondo me, dovremmo avercela. Questo è uno dei tanti opinionisti che su YouTube hanno il loro podio personale, anche lui ha visto la notizia e lui si preoccupa. Ma quanto la gente si preoccupa veramente che spezzarono le croci? Scusate, vogliamo dire, io mi rivolgo al medio credente italiano, medio che non va a messa, che fa i cavoli suoi e tutto, è veramente colpito profondamente, a meno che non sia una battaglia di tipo politico, mettiamo le croci nelle scuole, togliamole, via dicendo, dello spezzamento della croce, è veramente colpito del ratto delle proprie donne. Feidù, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono proprio musulmano. Sì, di dove? Del Senegal. Senegalese, sì. Ok, niente, vorrei solo contribuire a questo programma per far capire a tutto il mondo che questo ISIS è solo un gruppo di persone che sono banditi, perché ricordo solo tre versetti del Corano che dicono che non ha uno è la Ekrafidin, che non ci sono costrizioni in religione, uno e due. Il secondo è: voi tenetevi la vostra religione, io mi tengo la mia. Quindi queste due, e anche un altro che dice la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi, comprensibilissimo, che voi credete in tutte le religioni, in tutti i libri santi rivelati, e credete in tutti i profeti e i propri spiritelli. Fidu, lei ha senz'altro ragione, conosce molto meglio me il Corano, è sacrosanto questo sia scritto, ma anche noi, i nostri comandamenti dicono non desiderare la donna d'altri, ma tutti i buoni cristiani saltano addosso alla moglie degli amici senza nessun problema. Non rubare, le galere sono piene di ottimi cristiani che hanno rubato. Non uccidere, andiamo avanti. I testi sacri hanno un grande valore, ma poi le persone che li mettono in pratica hanno diversi comportamenti. Io sto parlando proprio in quella direzione. Sì, sì, loro non posso parlare in nome di un Corano, anche noi abbiamo fatto schifezze immonde in nome del Vangelo, però è giusto che lei ricordi che in realtà la parola scritta ha un suo valore, poi ognuno la mette in atto come vuole. Bruno Ballardini. Beh, è bellissimo questo intervento, e anzi c'è da ringraziare. Sarebbe interessante sentire più spesso musulmani, ma anche per esempio l'imam di Roma, l'imam di Milano, andrebbero chiamati nelle trasmissioni televisive per far sapere che cosa pensano veramente dell'ISIS. Sì, io vedo i profili Facebook degli addetti culturali alla moschea di Roma, sempre bravi a fare propaganda, a fare convegni, a chiamare le signore, non dicono una parola di vorrei questo. Vorrei sentire una ferma presa di posizione da parte di questi signori. Che abbiano il coraggio che ha avuto il nostro ascoltatore. Antonio, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Sì, buon dì. Volevo solo osservare che purtroppo ci troviamo di fronte a una corsaglia di fanatici ignoranti, e avete ragione. Ignoranti, lo metterei fra virgolette, perché in questo caso la campagna non è gestita da persone ignoranti, su questo dobbiamo averne consapevolezza. Però fa molto presa purtroppo sul mercato degli ignoranti. Gli intelligenti cercano il mercato degli ignoranti, la base del marketing è questa. Esatto, aveva ragione poi anche il signor Silvio Berlusconi quando tempo fa disse che purtroppo loro stanno vivendo nel Medioevo. No, guardi, Berlusconi ha sempre torto, sempre, qualunque cosa dica. Io non sono politicamente simpatizzante per Berlusconi. Vabbè, adesso, meno male, adesso non ce ne importa nulla. Quando dicono le cose giuste le apprezzo. Lei dice che non è una battuta di quelle che richiedono un background, sono nel Medioevo, sì, fino a un certo punto, sono in Arabia Saudita, vorrebbe starci al posto loro molte volte, e il Medioevo interiore dal punto di vista culturale lo conosco molto bene, anche nelle nostre città, anche nei nostri amministratori, anche nei più illuminati. Paolo, buongiorno. Buongiorno, io volevo rispondere alla domanda che avete posto prima sul fatto di come uno può reagire a questa dichiarazione riguardo le nostre donne. Cioè, come donne avverrebbe la consegna delle vostre donne ai guerriglieri che le pretendono? Sì, esatto, qua ci sono due modi di interpretare una frase del genere. Allora, o uno si fa una risata e dice questa è una cavolata, è irrealizzabile, irreale, quindi la si prende come bufala, perché se si dovesse prendere sul serio una cosa del genere, allora a quel punto lì è un discorso che si esula dalla religione in sé. Io posso essere cristiano, cattolico, protestante, osservante o meno, però se viene dal fastidio alla mia donna, ti do una bastonata sulle gengive, che tu sia musulmano. Perché la donna è intoccabile. Ma sì, cioè ci sono cose. Sì, però lei sa che in ogni guerra lo stupro è stata una delle armi più praticate. Noi stessi italiani abbiamo praticato sistematicamente lo stupro quando abbiamo invaso altre popolazioni, abbiamo subito lo stupro fino agli ultimi anni, le propaggini della guerra nella zona appunto di Cassino, hanno stupato donne, uomini, preti, di tutto, erano civilissimi alleati che hanno mandato queste truppe apposta per infierire quella che è la classica umiliazione del guerriero vincente da sempre: vinco, prendo le tue donne, le insemino con la mia progenie e ti sottometto facendo atto di sodomia su te uomo. Ma credo che poi dopo capiti la stessa sorte anche ai maschi, credo. Assolutamente, no? Sì, quello, sì, appunto. Sì. Beh, vabbè, voglio dire, qui potremmo anche provare dei diversivi di marketing invitando l'Algida a fare un, che ne so, un ghiacciolo alla liquirizia tutto nero chiamato Califfo. Califfo invece che Calippo, questa è una bella idea. Grazie Bruno Ballardini, abbiamo riflettuto su qualcosa che oggi era preso soltanto come fosse pura verità, elemento di terrore. A più tardi, cioè a domani.